Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi. Quella che state ascoltando è la seconda edizione di Italia in controluce, il programma di Radio 24 che ogni giorno in due edizioni, la replica alle 3:40, indaga sulla cronaca, sulla politica, sulla società italiana. In quale direzione sta andando il San Raffaele dopo la morte di Don Verzè? Il reportage di Raffaella Calanda. Del San Raffaele passa al re delle cliniche e dopo l'anno del crack, degli scandali e della morte del fondatore, per l'ospedale di Don Verzè, gravato da 1,5 miliardi di debiti, inizia una nuova era targata Rotelli. Spero che continui a funzionare altrettanto bene. Senz'altro che le vicende vengono seguite, però ciò non toglie che noi abbiamo fiducia, si abbia fiducia, insomma. Penso che ci saranno ripercussioni anche sul funzionamento della struttura, in quanto viene toccato tutto l'apparato dirigente dell'ente ospedaliero. Seduti nella grande sala delle accettazioni, i pazienti scrutano il tabellone e allargano le braccia. Alle preoccupazioni, ciascuno per la propria patologia, si aggiungono le incertezze sugli assetti futuri della struttura, che, evitato in estremis il fallimento, si prepara ad entrare nel grande gruppo ospedaliero San Donato. Io sono fiducioso perché l'ente ospedaliero, nella qualità dei suoi uomini, di chi lavora giornalmente al suo interno, è sano, è sostanzialmente sano. No, devo dire la verità, io ho avuto una bella esperienza. Si vede che era in deficit. Sono convinto anche che Don Verzè abbia fatto le cose un pochino troppo alla carlona, nel senso che non si è preoccupato troppo delle conseguenze che potevano avere certe sue iniziative, certe sue scelte. Deve funzionare. Ogni 2 settimane sono qui per la terapia anticoagulante, quindi la cosa mi preoccupava, benché sapevo che un capitale del genere non poteva dissolversi da un giorno all'altro, c'è poco da fare. L'ha preso quello lì di San Donato. E il fatto che sono venute fuori tutte queste spese qui al San Raffaele, gli jet privati. Dicono che con l'età si insavisce, invece si diventa più sclerotiche e basta con l'età. Ce la faccio a dire da uno che l'età ce l'ha. In attesa dell'assemblea dei creditori, le sorti del polo di Segrate si sono chiarite a pochi metri dal Duomo, nello studio del notaio Enrico Chiodi Daelli. Qui, al sesto piano di un austero palazzone, quando martedì 10 gennaio a mezzogiorno nessuna controfferta era arrivata dalla cordata Ior Malacalza, al notaio non è rimasto che certificare la vittoria di Giuseppe Rotelli, il re Mida della sanità lombarda, con i suoi 405 milioni già messi sul piatto per il San Raffaele. Non si sono allineati con le offerte in aumento, quindi questa asta sarebbe assegnata al gruppo Velca. Voi sapete che adesso non si è presentato nessuno. L'assemblea dei creditori da una parte, gli uffici della sezione fallimentare del tribunale dall'altra. Delineato l'esito dell'asta, è qui in queste due stanze che si scriverà la parola definitiva sul destino del San Raffaele, che a meno di capovolgimenti pare improbabili dell'ultima ora finirà nella grande galassia Rotelli. 18 ospedali con già all'attivo 3.956 posti letto e oltre 9.000 dipendenti, il gruppo San Donato si è aggiudicato l'istituto di Segrate con un'offerta doppia rispetto alla cordata della Santa Sede e che ha migliorato di altri 100 milioni la sua stessa prima proposta di 305. Ora i creditori metteranno tutti e quattro gli arcangeli sul cupolone e la battuta che circola tra i viali dell'istituto ospedaliero, considerando l'aumento per loro dei rimborsi fin quasi all'80%. Il 23 ci sarà l'assemblea dei creditori. Prima i vertici della Fondazione Monte Tabor incontreranno i giudici fallimentari, a cominciare da Filippo Lamanna, che aprendo al concordato preventivo aveva allontanato il crack. In tribunale il CDA con in testa il vicepresidente Giuseppe Profitti porta anche la propria disponibilità alle dimissioni. Credo che sia una realtà che andremo a rappresentare al giudice, a rappresentare il tipo, insomma, la situazione in essere, le problematiche che può dar luogo e avere da lui o concordare con lui le soluzioni migliori. Ci troveremo nella condizione di un certo imbarazzo nel dover gestire comunque, mantenere comunque la funzionalità di una struttura che giustamente in un certo modo deve rispondere anche ad interessi di altri. Sono stato chiamato in questi ultimi anni a gestire realtà sanitarie, insomma, dispiace un po', insomma, avviarsi verso un congedo, mettiamola così. In modo neanche troppo velato è contro di lui, contro Profiti, che si pronuncia uno dei camici più noti del San Raffaele, Alberto Zangrillo, direttore dell'unità di rianimazione e medico di Silvio Berlusconi. Noi abbiamo delle potenzialità inespresse che, se giustamente interpretati, possono produrre anche in termini quantitativi molto di più. Per cui io credo che poter dire essere l'azionista di riferimento del San Raffaele sia un risultato straordinario anche dal punto di vista imprenditoriale. Noi siamo soddisfatti, siamo contenti e devo dire che siamo anche estremamente delusi per l'atteggiamento, che non riusciamo a decifrare, di chi in questo momento si arroga il diritto di dire che l'ospedale è salvo grazie a lui. Ma gli assetti futuri del polo, il futuro del nuovo San Raffaele, della cosiddetta NewCo, preoccupano i sindacati, come Daniela Rottoli della USB. Fino al passaggio della nuova NewCo e quindi a fine del concordato non ci sono rischi. Il problema, se ci sarà, speriamo di no, potrà essere proprio durante la costituzione di questa NewCo. Cioè, voi temete che nel momento in cui diventi operativa questa NewCo, a quel punto, venendo a cadere i vincoli imposti dal tribunale, ci possa essere anche una riduzione dell'organico? Questo temiamo, proprio perché con un'offerta così alta temiamo che poi si possa rientrare nei costi tagliando, che da una parte si possano rischiare i livelli occupazionali e i carichi di lavoro e dall'altra che si possa comunque ridurre sulla ricerca. E fontane, l'ombra dell'arcangelo Raffaele si allunga dal cupolone. Qui sotto pulsa anche il cuore della ricerca e la speranza di tutti è che è passato lo tsunami, per dirla col direttore scientifico Maria Grazia Roncarolo, tutto riprenda senza più scossone. È la chiusura di un'epoca, perché il nostro fondatore ha avuto un'influenza determinante non solo sulla nascita della ricerca del San Raffaele, ma anche sul suo sviluppo. In questo era stato assolutamente visionario nel capire che uno ospedale non può essere un ospedale di eccellenza se non ha accanto una ricerca innovativa e d'avanguardia. Sicuramente con la sua morte si chiude un'epoca, non si chiude il progetto. Noi abbiamo un piano strategico quinquennale della ricerca che è stato approvato dal nostro consiglio di amministrazione precedente e chiaramente ci auguriamo tutti che il nostro futuro proprietario, chiunque esso sia, sia un imprenditore illuminato. Quello che a voi sta a cuore è che venga in un certo modo garantita quello stesso livello di investimento, di tutela e di autonomia, ma soprattutto di sostegno al settore che è quello della ricerca. La ricerca del San Raffaele, che oggi vede quasi 700 operatori, in larga misura si autofinanzia. Grazie alla ricerca l'ospedale potrà mantenere il suo livello di attrattività e di eccellenza a livello non nazionale, internazionale. La prospettiva di essere inseriti all'interno di un gruppo molto ampio che ha anche moltissime altre strutture ospedaliere, diciamo, non vi preoccupa più di tanto? Io dico che chiunque sia il nostro prossimo investitore, ci auguriamo tutti comprenda il valore dell'oggetto e lo sappia portare avanti con lo stesso impulso e con lo stesso entusiasmo che ha saputo fare il nostro fondatore. Avete risentito in qualche modo anche voi di tutto quello che poi è stato quantificato in una voragine da 1,5 miliardi? È stato un anno ovviamente molto complesso e anche molto doloroso, perché noi ci siamo trovati in una crisi finanziaria che non è stata causata da noi, né dall'ospedale né dalla ricerca. E quindi ci siamo sentite, non dico vittime, ma coinvolte in una crisi finanziaria che era stata determinata da dei fattori esterni. È vero che San Raffaele era indebitato da molti anni, questo lo sapevamo tutti, ma non c'è stata una condivisione del livello di gravità della crisi finanziaria. Non ha fatto forse anche più rabbia la scoperta di spese discutibili che possono aver contribuito alla creazione di questo dissesto? Questo senso di appartenenza nasce anche per precisa volontà del nostro fondatore, che ci ha sempre chiamati raffaeliani e ha sempre affermato: il San Raffaele siete voi, il San Raffaele è vostro. Tutti noi ci auguriamo che si faccia chiarezza al più presto, perché se ci sono stati degli errori è giusto che questi errori emergano e che venga fatta luce sulle responsabilità di questi errori. Io mi auguro che questa indagine della magistratura faccia piena luce. Anche per noi c'è bisogno di prendere atto di quello che è successo e voltare pagina. Avete ascoltato il reportage di Raffaella Calandra sul San Raffaele, Italia in Controluce, seconda edizione. Questa puntata è scaricabile in podcast su radio24.it, siamo su Twitter, Facebook, la pagina, il gruppo, siamo sul blog del sito www.radio24.it, siamo rintracciabili via mail controluce@radio24.it. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24 con nuove inchieste, nuovi reportage.